Cantine di Franciacorta. Un saluto da Capriolo e dalla cantina Facchetti Silvana, azienda a conduzione familiare da 20.000 bottiglie all'anno, la metà delle quali bollicine, realtà nata da zero nel 92 in attesa di presentare l'ultimo nato in cantina, il primo rosé vinificato. Dalle parole di Giuseppe Moraschi, marito della signora Silvana, una vera dichiarazione d'amore per il fare vino. La prima volta che abbiamo schiacciato l'uva avevamo usato una pizza di respatrice per fare dei bianchi. Poi sono arrivate le presse, dove naturalmente vai a fare delle pressate più soffici, però anche la prima volta che abbiamo fatto il vino è stata proprio una bella esperienza, perché entravi proprio in un mondo che proprio non conoscevi e pian piano riesci a capire quanto possa essere bello il mondo del vino, la natura, la vigna, cosa ti dà, vedere man mano la maturazione, i problemi che puoi avere. Il vino è molto delicato, bisogna sempre trattarlo bene. Alla prossima tappa! Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.